ci racconti una storia. I racconti di Laura Lorenza Sciolla. Tra i miei propositi per l'anno nuovo, il più semplice e anche il più arduo da attuare. Il proposito è: vivi nel presente. Niente di nuovo, naturalmente. In fondo, vivere nel presente non è altro che la rivisitazione del famoso carpe diem, cogli l'attimo, vivi il giorno, di Orazio. Eppure, per quanto appaia facile, vivere nel presente, cogliere l'attimo, è difficilissimo. Vogliamo rileggere insieme l'ode di Orazio? Eccola qui, nella traduzione di Tito Colamarino. Non domandare, o Leuconoe, che saperlo non è lecito, qual termine gli dèi hanno segnato a me, quale a te, e non consultare le cabale babilonesi. Quanto è meglio prendere in pace tutto quello che ha da venire. Sia che Giove ci abbia concesso molti inverni, sia che l'ultimo sia questo, che fiacca sugli opposti scogli il mare Tirreno, tu sii saggia. Filtra il vino da bere e restringi in un ambito breve le lunghe speranze. Mentre noi parliamo, sarà già sparita l'ora, invidiosa del nostro godere. Carpe diem, il Colamarino traduce, cogli la giornata d'oggi e confida il meno possibile in quella di domani. Qualche volta alcuni lettori frettolosi intendono il carpe diem come un invito al piacere sfrenato e sconsiderato, quello che oggi viene detto sballo. Per i lettori però si sbagliano. Lo sballo è un modo per scialacquare il tempo, un modo per attraversare la vita con impeto precipitoso e vano, un modo per uccidere gli attimi unici e preziosi che ci sono dati in sorte. Il carpe diem è esattamente il contrario. Proprio dalla constatazione della precarietà e dell'imprevedibilità della vita, che nemmeno i più sofisticati calcoli astrologici, le cabale babilonesi, possono prevedere, deriva l'invito ad assaporare ogni istante. Il carpe diem è l'arte di centellinare l'attimo, non quella di trangugiarlo con vorace animalesca. Per spiegarlo meglio, citerò due esempi. Entrambi sono tratti da un delizioso libretto pubblicato molti anni fa da Adelphi, 100 storie zen. Le storie che leggerò illustrano due diversi aspetti del carpe diem. La prima evidenzia la capacità di godere di ogni minima frazione di tempo, anche se ci si trova nelle più avverse condizioni. Eccola. Un uomo che camminava per un campo si imbatté in una tigre. Si mise a correre, tallonato dalla tigre. Giunto a un precipizio, si afferrò alla radice di una vite selvatica e si lasciò penzolare oltre l'orto. La tigre lo fiutava dall'alto. Tremando, l'uomo guardò giù, dove, in fondo all'abisso, un'altra tigre lo aspettava per divorarlo. Soltanto la vite lo reggeva. Due topi, uno bianco e uno nero, cominciarono a rosicchiare pian piano la vite. L'uomo scorse accanto a sé una bellissima fragola. Afferrandosi alla vite con una mano sola, con l'altra spiccò la fragola. Com'era dolce! Io trovo questa storia deliziosa, proprio come la fragola del finale. In poche righe riesce a sintetizzare la tragicità della condizione umana e, contemporaneamente, la meraviglia di essere vivi nonostante tutto, sia pure sospesi su un precipizio, con una tigre a bocca spalancata pronta a divorarti sul fondo dell'abisso. Mi piace molto anche il ritmo della vicenda. Dapprima veloce, incalzante, come la nostra esistenza, dove tanto spesso gli impegni si accumulano, si accavallano, tanto che sembrano inseguirci e soffocarci, per poi frenare all'improvviso nella sorpresa finale, vero e proprio apros docheton. Ammiro molto il protagonista, grandissimo eroe dell'arte di vivere. Invece di disperarsi e piangere su se stesso, sul proprio imminente e drammatico futuro, come farebbero molti di noi in una situazione del genere, sa vivere nel presente. Si mangia la fragola e gode della sua dolcezza. Ammiro molto anche il protagonista della seconda storiella zen che voglio sottoporre alla vostra attenzione. Pure questo è un artista della vita. Ha capito infatti che, per cogliere pienamente l'attimo, bisogna dedicarsi a ogni attività, anche la più umile, con cura e impegno assoluti, totali. Ecco la storia. Camminando per un mercato, Banzan colse un dialogo tra un macellaio e un suo cliente. «Dammi il miglior pezzo di carne che hai», disse il cliente. «Nella mia macelleria tutto è il migliore», ribatté il macellaio. «Qui non trovi un pezzo di carne che non sia il migliore». A queste parole Banzan fu illuminato. Quel macellaio è un altro eroe del carpe diem.